Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Eccoci, siamo qua, sono le 11.08, è arrivato il nostro momento. Prima di andare ai titoli del nostro sommario, ringrazio Peter Bescapè in regia alla parte tecnica e Laura Vanossi in redazione. Siamo pronti. È l'articolazione più mobile ma anche la meno stabile, la spalla e i disturbi che possono metterla a KO. Una mamma chiede aiuto, il nostro forum risponde. Tumore del colon, batterlo si può. Per iniziare bene la puntata di oggi, in cui parleremo, come avete sentito dai titoli del nostro sommario, dei problemi della spalla, abbiamo pensato di metterci subito nelle condizioni migliori e regalarci un momento di benessere, proprio provando a sciogliere un po' le tensioni che sappiamo amano pesare, concentrarsi sulle nostre spalle, rendendole contratte, doloranti e anche ricurve, no? Quasi a testimoniare un po' il peso che hanno su di noi gli affanni quotidiani. Allora ci facciamo aiutare da Lisetta Landoni, presidente dell'Accademia Kriya Yoga di Milano, che è tornata a trovarci. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora, noi siamo pronti a scioglierci. Va bene, è come invitarmi a nozze, perché a me piace molto questo lavoro di scioglimento sulle spalle, perché è lì appunto, come lei diceva giustamente prima, che tendono a concentrarsi tutte le tensioni, soprattutto nel tratto interscapolare. Quindi non è che ci sono molte cose da fare, però c'è un esercizio importantissimo che tutti dovremmo fare anche più volte al giorno. Soprattutto se facciamo un lavoro in cui stiamo molto alla scrivania, al computer, eccetera, e lo facciamo poi magari in una maniera sbagliata, con un atteggiamento un po' di affanno, di un preoccupazione. Un po' anche viziato, perché adesso io stavo vedendo come sono seduta, no? E sono tutta un po' curvetta, un po' aggrovigliata. Allora, ecco. Proviamo, iniziamo l'esercizio, certo, andiamo, noi siamo pronti, lo facciamo in diretta. Tranquillamente, sia che siamo in piedi, se che siamo seduti, non ha importanza dove e come. La cosa importante è prendere coscienza di questo movimento molto semplice che si fa così. Dunque, noi solleviamo le spalle verso le orecchie e poi le abbassiamo avvicinando le scapole. Ecco, lì dobbiamo proprio cercare di forzare questo punto, che poi è un tratto interscapolare, lì dove si concentra tutto, perché l'abitudine in genere ci porterebbe a fare il contrario, quindi a mantenere il dorso curvo. Noi dobbiamo assolutamente metterci d'impegno per fare con questo esercizio, prendere coscienza di questo tratto che può essere estremamente mobile e abituare appunto le scapole ad avvicinarsi. Poi proseguiamo abbassando le spalle e curvandole, quindi proprio in modo che le spalle si avvicinino sulla parte anteriore del nostro corpo, e poi ancora successivamente solleviamo le spalle verso le orecchie, avviciniamo le scapole, abbassiamo i gomiti verso il basso, quindi una circonduzione delle spalle molto semplice, però fondamentale. Mi sembra molto semplice, insomma, anche per i gufi impagliati, come si definiscono le persone di cui io faccio parte, un po' rigidine. Mi sembra, io ho provato a farlo, devo dire che mi spaglio. Attenzione, che c'è una cosa poi che è molto carina. In genere, quando si inizia a fare questo movimento semplicissimo, sopravviene uno sbadiglio, come se incominciassimo appunto a sciogliere i nodi. Poi uno sbadiglio profondissimo, non preoccupiamoci, sbadigliamo a bocca spalancata e continuiamo con questi movimenti, ripeto, però da fare più volte al giorno. Signora Landoni, un messaggio è arrivato in tempo reale da Cristina, che ci ha scritto: sono mamma da 3 mesi al latto, mi sono accorta che la mia postura si sta modificando a partire dalle mie spalle, cosa posso fare per non diventare gobba, ci chiede. Questo esercizio va bene anche per le mamme che allattano, soprattutto per loro. Ma sì, proprio per loro, perché certo mi ricordo benissimo quando allattavo, che fatica che era, che dolore proprio lì, sempre tra le scapole. Ecco, allora, quando il bambino sarà sazio, lo mettiamo subito da qualche parte in mano a qualcuno e noi immediatamente riprendiamo queste circonduzioni con le spalle, che sono una vera salvezza. Ecco. Grazie signora Landoni per essere stata con noi, ricordo presidente dell'Accademia Kriya Yoga di Milano. Buona giornata. Grazie. Noi continuiamo a scioglierci. Arrivederci, grazie. Bene, adesso insomma si ragiona meglio, quindi siamo pronti ad ascoltare con maggiore attenzione, credo, la nostra scheda che ci permetterà di inquadrare il nostro problema. Il dolore è sempre presente oppure è scatenato dal movimento? Sei riuscito anche a individuare il movimento incriminato? Ti fa male, ad esempio, se sollevi un peso? Se ruoti il braccio o se assumi una particolare posizione per un tempo prolungato? Il dolore si accentua muovendo il capo o il collo? Di notte generalmente si calma o al contrario la sensazione dolorosa si aggrava? Localizza il punto in cui la spalla ti fa male. Il dolore è fisso o si irradia? Seguilo. In che direzione va? Verso il collo o verso il gomito? Bene, intanto che voi fate, come si dice, mente locale, potete iniziare a chiamare il nostro numero verde che è già a vostra disposizione, come sempre 800 24 0024, oppure potete, come ha fatto Cristina, scriverci un messaggio al 349 238 6666. Voglio presentarvi l'ospite che oggi ci aiuterà a esplorare in lungo e in largo la nostra spalla, soprattutto a capire le cause del suo malessere. Quindi dai sintomi che voi ci descriverete arriveremo un po' all'origine del problema per dirvi in quali casi è possibile risolvere la situazione, magari con la fisioterapia, o quando invece è necessario affidarsi alle mani del chirurgo. Insieme con noi abbiamo il dottor Leonardo Maradei, responsabile della sezione mini invasiva ortopedica dell'Istituto Clinico Humanitas di Milano. Dottore, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Ha provato a sciogliersi anche lei un po' alle spalle? Sì. Bene. Allora, senta dottore, invece con il suo aiuto dovremo capirne di più. Insieme a lei abbiamo preparato questa scheda, ma i nostri ascoltatori devono anche essere pronti a confessarci la loro età, e questo non perché siamo curiosi, ma è un dettaglio fondamentale. Dottor Maradei, provi a convincerli lei. Sì, perché la spalla, la patologia della spalla ha dell'età, nel senso che fino a 30 anni è molto frequente l'instabilità di spalla nelle persone giovani che effettuano tanto sport, che fanno tanto sport, possono esserci dei microtraumi che portano un'instabilità di spalla, oppure per cadute sugli sci, per cadute dal motorino. Insomma, l'instabilità è una delle patologie più frequenti intorno ai 30 anni, fino ai 30 anni. Nelle persone un po' meno giovani la patologia più frequente è quella dei tendini, della cosiddetta cuffia dei rotatori, patologia che può essere sia traumatica ma anche degenerativa, dovuta proprio ad un invecchiamento di questi tendini che col tempo tendono ad usurarsi e quindi molte volte anche a rompersi. E poi c'è la patologia dell'anziano, che è la patologia artrosica, cioè l'usura vera e propria della cartilagine dell'articolazione, che col tempo, così come i tendini, anche l'articolazione tende ad invecchiare, quindi a consumarsi e a dare dolore. Allora, restate con noi perché la spalla può dare problemi, abbiamo visto, a tutte le età, ce n'è per tutti i gusti e per tutte le età. Il nostro numero verde a disposizione 800 24 0024, fatevi aiutare dagli spunti che abbiamo cercato di sottolineare con la nostra scheda. Inviateci i vostri messaggi al 349 238 6666. Una mela al giorno. 10 giorni fa circa abbiamo dedicato, come facciamo d'abitudine, con una certa cadenza, un'intera puntata all'importanza dello smettere di fumare. Bene, in quell'occasione voi avete partecipato numerosi, ci avete scritto, ma ci ha chiamato una mamma, Valentina, una giovane mamma con un bambino di 8 mesi che, se non sbaglio, si chiama Lupo, e ci ha raccontato che ha smesso di fumare proprio in occasione della gravidanza, dei primi mesi di allattamento, ma la voglia di accendersi una sigaretta in me ritorna. Allora noi in diretta le abbiamo consigliato di trovare degli spunti, anche delle motivazioni, nella comunità mediatica del nostro forum, naturalmente sempre con la supervisione del nostro esperto, il dottor Boffi, e le abbiamo chiesto se potevamo in qualche modo monitorarla nel tempo. Oggi l'abbiamo quindi richiamata, è con noi Valentina. Benvenuta Valentina. Salve Nicoletta, a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Valentina, lei è diventata un po' la nostra mamma tipo. Allora, innanzitutto, Lupo sta bene? Sì, sta bene, fortunatamente. Bene, sì. Bene, cresce sano, bello, vispo, e amerebbe avere una mamma che non fuma, perché ai bambini il fumo passivo, e non solo a loro, fa molto male. Ma Valentina, voglio intanto dirle che in linea con noi abbiamo il dottor Boffi. Dottore, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, sono qua. Responsabile del Centro Antifumo dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Via Venezia. Allora, Valentina, sta andando ancora abbastanza bene o ha avuto delle grosse tentazioni? No, devo dire la verità, sta andando abbastanza bene, nel senso che ogni volta che trascorro quelle giornate in cui in fondo la tentazione è proprio forte, poi non so se è una casualità o una mia sensibilità, in qualche modo capita sempre qualcosa che mi fa pensare, beh, meno male che per oggi ancora non ho ricominciato. Non so, mi capita di stare in un luogo molto con molto fumo e quindi ritorno a casa con quell'odore detestabile addosso, oppure incontro persone che magari hanno avuto gravissimi problemi di salute a seguito del insomma di questa intensa attività, e insomma succede sempre qualcosa che mi fa pensare, beh, meno male che tengo duro. Sì, sì. Senta Valentina, ma lei usa anche dei piccoli accorgimenti? Ad esempio, molti dicono cerco di non bere il caffè così non mi viene la voglia, oppure alcune, come ci ha scritto un ascoltatore dopo la trasmissione, lui ha iniziato a bere il caffè in piedi perché seduto gli veniva voglia di fumare, e alcuni hanno cambiato la dieta. Lei ha fatto anche queste cose oppure no? Ma ho dovuto rinunciare al caffè, questo ecco. Sì, perché devo dire che il connubio caffè e sigaretta per me è sempre stato molto molto seducente, e quindi ho dovuto eliminare entrambe le cose. Allora, sentiamo il dottor Boffi. Beh, intanto... Dottore. Certo, intanto devo fare i complimenti a Valentina e anche l'idea di questa, di questo reality che sta nascendo, perché come abbiamo fatto Radio Reality per aiutare le persone a smettere di fumare, adesso questo sta diventando veramente un prototipo di come provare a non ricominciare a fumare. Valentina veramente ci sta insegnando come ogni giorno deve essere vista veramente come una piccola grande conquista, soprattutto dopo un evento importante come quello della gravidanza, dove purtroppo tre quarti delle fumatrici poi ricominciano a fumare. A questo punto volevo chiedere a Valentina una cosa, se si ricorda come aveva iniziato a fumare, quando aveva fumato la prima sigaretta, anche per evitare che ricada nello stesso errore ancora adesso. Valentina, se lo ricorda? Da ragazza. Sì, benissimo, perché io ho iniziato da grande, ho iniziato a 23 anni, dopo una lunga crociata contro i miei genitori che sono due fumatori accaniti, e ho cominciato in un momento un po' delicato, diciamo così, dopo una delusione sentimentale, un momento insomma un po' così, e ho iniziato a fumare subito 10 sigarette al giorno, quindi ho iniziato in pompa magna, ecco, me lo ricordo molto bene. Ecco, sì. Ecco, no, questo è importante perché dovrebbe fare tesoro appunto di questa esperienza per evitare di fare ancora la stessa scoperta, cioè di surrogare magari un momento di stress, di tensione, di nervosismo, ricominciando a fumare credendo che basti poi dopo poco per non fumare più. Invece no, perché lei ormai sa fumare, e quindi è molto importante quello che ha fatto per se stessa prima di tutto, oltre che per suo figlio, e quindi assolutamente deve cercare di dare un senso a questa data che è stata quella che l'ha portata a smettere di fumare, mi auguro per sempre. E a proposito del ricordo, mi piace citare uno studio che è appena uscito, uno studio di colleghi francesi, pubblicato su Archives of Internal Medicine, a proposito della memoria, che ha dimostrato che il fumo, oltre a danneggiare la salute, può anche far peggiorare la memoria, in quanto test cognitivi sul ragionamento, sul linguaggio, sulla capacità amnestica, ha dimostrato, anche verificati dopo 5 anni, che purtroppo i fumatori tendono a perdere le loro capacità cognitivi, però questo rischio, che è del 30%, cioè parecchia memoria in meno hanno i fumatori, è assolutamente reversibile. È inevitabile ma reversibile, per cui il danno provocato alla memoria delle sigarette si risolve brevemente, praticamente sempre smettendo di fumare. Infatti già Valentina si ricorda benissimo come fumava la prima sigaretta. Valentina, allora lei non si dimentichi di andare sul nostro forum, la nostra, dottor Boffi, possiamo lanciare un appello alla nostra comunità di, certo, dare dei, soprattutto, di aiutarla a non ricominciare, soprattutto le mamme che hanno magari cercato di combattere con questa tentazione dopo che avevano smesso. Il dottor Boffi ci ha ricordato un dato importante: molte donne dopo aver smesso, nella fase magari superata la fase dell'allattamento, ricominciano. Valentina, lei è la nostra eroina, quindi tenga duro Sì, guardi, io vorrei dire solo questo, che certo. nel corso di questi mesi io spesso ho pensato, guardandoli i fumatori, ho pensato, oh, però loro come sono liberi di fumare, io invece non sono libera di fumare perché per motivi insomma legati alla gravidanza. Adesso incomincio piano piano ad assaporare la mia libertà di non fumare, quindi di non essere schiava come invece prima di fatto ero, del pacchetto di sigarette, di questa routine, insomma di questo rituale. In questo vorrei dire una cosa, che anche se tutti i fumatori sanno perfettamente quali sono i danni che possono, insomma, ai quali si espongono fumando, in realtà sentirselo dire e discuterne ha un'influenza veramente sulla propria capacità di determinare, insomma, il comportamento quotidiano, che continua ancora per me a essere una battaglia quotidiana, però insomma devo dire che l'aiuto da questo punto di vista di una comunità fisica o telematica, insomma, che sia, devo dire che c'è. Cioè, Valentina, mi sembra che lei è talmente già ben impostata che può a sua volta aiutare il dottor Boffi a mandare dei messaggi alle persone che stanno combattendo col desiderio di ricominciare. Allora Valentina, un abbraccio a lei, due baci al suo bambino. Grazie. Noi ci sentiamo e poi ci sentiremo attraverso il forum, dottor Boffi. Bene, ottima iniziativa anche questa, e smettere di fumare è contagioso e cerchiamo di far diventare anche il fatto di non ricominciare. Grazie dottor Boffi, grazie, buona giornata. Grazie. Pronto soccorso. Oggi parliamo di spalla e l'articolazione più mobile del corpo umano, pensate, ma anche l'articolazione meno stabile. A volte può essere dolorante oppure avere difficoltà a muoversi. Le cause possono essere diverse, un po' ne ha già parlato il nostro ospite, il dottor Leonardo Maradei, che è in linea con noi, dal classico evento traumatico, una sorta di logorio, no? Che procede anche silenzioso negli anni e poi si manifesta all'improvviso. Abbiamo già in linea Paolo dalla provincia di Latina. Buongiorno Paolo, benvenuto. Buongiorno a tutti voi. Ci racconti come stanno le Il sue spalle? Il mio problema, ecco, vengo subito al dunque. Circa ormai da 2-3 anni che accuso un dolore, ma non è proprio un dolore insopportabile, cioè è un dolore che più che altro lo avverto di notte. Un disturbo alla spalla che mi si irradia fino a più o meno al gomito della spalla sinistra. Sì. E io in pratica circa un anno fa ho fatto una risonanza magnetica e anche una visita ortopedica per questa cosa. Dalla risonanza magnetica adesso al lume di Manaso, per quanto mi riguarda, mi sembra che insomma si parlava tipo di un conflitto scapolo-omerale con infiammazione del tendine soprapinato. Sì. Si ricorda bene, sembra un medico. Dottor Maradei, che cosa possiamo dire a Paolo? Ha bisogno di qualche domanda aggiuntiva? Vuole sapere quanti anni ha? Paolo, quanti anni ha? Sì, quanti anni ho? 42. 42. Sì. E poi il dolore gli viene di notte. Anche noi nella nostra scheda abbiamo evidenziato questo particolare. Allora, il dolore notturno è tipico delle patologie tendine della spalla. Chi ha sofferenza ai tendini della cuffia del rotatore ha dolore notturno. Infatti riferisce di non riuscire a dormire, di non riuscire a stare a letto. Molti dormono sulla poltrona addirittura, perché sdraiati a letto non riescono a dormire. Questa è una cosa abbastanza tipica. Nel caso dell'ascoltatore, probabilmente quello che hanno riscontrato con la risonanza magnetica è un conflitto, viene chiamato conflitto sottacromiale. Vale a dire, sopra la spalla c'è un altro sicino che fa parte della scapola, che è l'acromion. Sì. Che a volte è un pochettino più curvo del normale e quindi chiude lo spazio dove in realtà scorrono questi tendini della cuffia dei rotatori che permettono i movimenti della spalla. Per cui chiudendo questo spazio questi tendini sfregano contro questo osso e quindi il tendine si infiamma, certo. ed ha questa sintomatologia dolorosa. Senta, sì. Dottore, ma che cosa deve fare? Ma in genere in un soggetto di 42 anni con la fisioterapia si recupera tutto, a meno che l'acromio non sia proprio particolarmente sporgente e abbia bisogno di essere riallineato, quindi limato, sì. Ma questo succede in pochissimi casi, in genere con una buona riabilitazione, perché un rinforzo del tono muscolare. Vero dottore, perché voi dite anche se fa male non bisogna bloccarle, insomma la spalla è nata per muoversi. Sì. Andiamo a Prato, ci chiama Lucilla, buongiorno Lucilla. Buongiorno, complimenti a voi. Senta, io ho avuto un problema alla spalla, ho avuto un incidente. Scusi perché c'è un ritorno. Ho sempre questo dolore, ho fatto delle infiltrazioni e cure fisiche, però non vuol passare. Mm. Volevo sapere una cosa un po' più specifica. Spalla, questo è il tema del giorno. Abbiamo in linea con noi il dottor Leonardo Maradei. 824 0024 è il numero per intervenire in diretta. Potete anche, naturalmente, se la vostra spalla non è troppo dolorante, mandarci un messaggio al 349 238 6666. E in attesa delle vostre chiamate e dei vostri messaggi, parliamo di un nemico della nostra salute che ha i giorni contati. È il tumore del colon. È vero che a tutt'oggi è una malattia ancora dai grandi numeri, però, e questa è una buona notizia, i medici ormai lo conoscono bene, quindi possono, come dire, anticiparne le mosse. In linea con noi abbiamo il dottor Ermanno Leo, che è direttore della struttura complessa della chirurgia del colon retto dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano di via Venezian. Dottore, buongiorno. Buongiorno a lei. Sono stata troppo ottimista? No, direi di no, che è un messaggio importante quello che lei ha dato, perché è vero, dopo i grandi progressi della chirurgia, direi che questo nemico l'avevamo già abbastanza ridotto nella sua aggressività, e direi che i passi avanti nelle nuove terapie, nelle nuove diagnostiche, direi che sono passi da gigante. È vero che oggi è possibile diagnosticarlo con maggiore rapidità e soprattutto con più precisione? Esattamente. Oggi, con le conoscenze che abbiamo dello sviluppo della malattia, da benigna a maligna, se interrompiamo questa corsa, cioè asportando il polipo e l'adenoma, noi evitiamo che insorga il tumore, quindi potrebbe scomparire questo tumore se tutti facessero gli esami preventivi di screening e di diagnosi precoce. Dottore, però si parla anche di vaccino, cosa vuol dire? Sì, questa è una cosa molto bella che abbiamo messo a punto noi in maniera artigianale, cioè, purtroppo le malattie avanzate dopo la chirurgia non avevano grandi benefici dalle chemioterapie tradizionali, dalla radioterapia. Quindi abbiamo individuato una categoria di malattie e di pazienti che non andavano bene e le cui caratteristiche ci hanno portato all'identificazione di una proteina negativa, cattiva, che è la survivina. Su questo già ormai più di 2 anni fa abbiamo fatto costruire, diciamo così, un vaccino artigianale contro questo, e direi che i risultati dalla prima sperimentazione su 14 pazienti sono stati soddisfacenti, e ora ci apprestiamo in pochi mesi a una seconda fase molto più ampia e quindi di nuovi orizzonti terapeutici. Dottore, io la ringrazio davvero per essere stato con noi, perché ci ha portato ottime notizie. Rimando anche i miei amici da casa per ulteriori approfondimenti al sito Salute 24, e intanto la saluto, dottore. Buona giornata. Grazie anche a voi, buon lavoro. Ed ecco, è arrivato il momento di tornare a parlare della spalla. È arrivato il turno di Lucilla da Prato, che ci aveva chiamato prima degli aggiornamenti dei mercati. Lucilla. Sì, buongiorno. Ci deve dire l'età. Il dottor Maradei che vuole saperla. 42. Bene. Allora, un trauma e poi questo dolore che non va via, giusto? Sì. Volevo sapere se aveva fatto qualche accertamento, qualche radiografia, una risonanza. Sì, ho fatto una risonanza e non si vedeva niente, diciamo. Dottor Maradei, prendo spunto dalla storia di Lucilla. Sì. È la risonanza l'indagine che permette di visualizzare bene la nostra spalla e quindi mettere voi nella condizione di capire che cosa non funziona, oppure quale parte della spalla è infiammata, o c'è dell'altro? Allora, la risonanza va benissimo in quei pazienti in cui si sospetta un danno a livello della cuffia dei rotatori, quindi persone non più giovanissime, quindi sicuramente sopra i 30, sopra i 40 anni, ma anche di più, e l'esame d'elezione, la risonanza magnetica è l'esame che ci fa vedere meglio la situazione dei tendini. Sì. E nelle persone più giovani che hanno avuto un trauma e comunque in cui si ha un'instabilità di spalla, una lussazione, la risonanza magnetica deve essere associata anche ad un gesto più invasivo, che è l'introduzione di mezzo di contrasto nell'articolazione, fare cioè quella che viene chiamata un'artrorisonanza magnetica. In questo modo si riescono a vedere bene le strutture come i legamenti della spalla, che sono fondamentali per la stabilità della spalla, perché come lei ha detto la spalla è l'articolazione che si muove di più del corpo umano, ma è anche quella meno con meno congruenza, cioè i capi articolari, uno la glena è quasi piatta, mentre invece la testa dell'omero è sferica, per cui se non ci fossero i legamenti dei tendini non starebbe in sede. Quindi alla nostra amica Lucilla, se la risonanza non ha evidenziato nulla ma il dolore alla spalla rimane, un altro esame per vederci più chiaro? No, in realtà la risonanza che ha fatto va benissimo nel suo caso, perché lei non ha avuto nessuna lussazione, nessuna instabilità, per cui la risonanza va bene. E per togliere il dolore? Molto probabilmente le si col trauma e quindi col dolore che ha avuto dopo il trauma e col poco uso che ha fatto della spalla per questo motivo, lei ha creato un'ipotrofia della muscolatura della sua spalla e la sua spalla non lavora più bene, perché come abbiamo appena detto deve essere ben bilanciata la muscolatura con i legamenti e i tendini perché la spalla sia stabile. Se i muscoli si indeboliscono per il non uso, la spalla non lavora più bene e quindi fa male. Per cui un buon programma riabilitativo potrebbe risolvere completamente il problema. Parleremo poi di programmi riabilitativi, ma prima, dottor Maradei, nella nostra scheda abbiamo specificato un sintomo, e cioè il dolore alla tua spalla si irradia e in che direzione va? Verso il collo o verso il gomito? Arrivano molti messaggi specificano i nostri ascoltatori: o male soprattutto nella parte finale del braccio, oppure la spalla, o male alla spalla e al collo. Sono due problemi diversi? Sì, perché il dolore tipico della spalla, il dolore proprio della spalla, si irradia verso il gomito e non va verso il collo. Allora, se il dolore va verso il collo o è un problema di un'altra articolazione che fa sempre parte del gruppo della spalla, ma è l'articolazione fra la clavicola e l'acromion, che è una parte della scapola, oppure un problema di cervicale. Molto spesso il paziente dice aver dolore alla spalla, in realtà ha una cervicalgia, un problema che interessa più la cervicale che la spalla. Quindi è dal gomito in giù che dalla spalla in giù. Dalla spalla in giù. Andiamo all'Aquila, ci chiama Anna 824 0024. Anna, buongiorno. Buongiorno a lei. Ci aiuti con la sua domanda a comporre questo puzzle per il benessere della nostra spalla, perché il dottor Maradei prende sempre spunto dai vostri interventi per dare dei consigli anche a livello generale. Anna, che succede? Grazie, io volevo dire che mia figlia, che ha 40 anni, insomma, molto spesso la sua spalla si sublussa. Sì. Questo è avvenuto a seguito di un trauma. A Roma le è stato consigliato di fare il potenziamento della spalla, ma questo accade, insomma, questa sublussazione si ripete ogni tanto. Volevo chiedere che cosa può fare di più. Grazie, di Anna. Quello che già fa. Dottor Maradei. Allora, quando le sublussazioni sono la conseguenza di un trauma e quindi di un evento che ha indebolito i legamenti articolari della spalla, il primo passo è sicuramente quello di provare a riequilibrare la spalla con una buona ripresa funzionale, con della muscolatura, quindi tanta riabilitazione, tanto rinforzo muscolare. Se però questo, come mi sembra di aver capito, non dà successi, bisogna pensare a un trattamento chirurgico, vale a dire si è aperta ormai una porta sulla spalla per cui la spalla non riesce più a stare nella sua sede e tende ad andarsene il più delle volte in avanti, qualche volta anche indietro, ma il più delle volte in avanti. In questo caso adesso ci sono tecniche mini-invasive, artroscopiche, quindi con queste sonde che entrano nell'articolazione si fa una plastica, cioè una specie di cappottino a questi legamenti che si sono sfiancati e si sono aperti, in modo tale che la spalla stia in sede. Bene, mi piace questa cosa del cappottino, ma solo nei casi in cui insomma la spalla continua a sublussarsi. Certo, andare. Certo. Sì. Abbiamo tempo di fare un saltino a Roma perché Paolo ci sta aspettando. Buongiorno Paolo. Buongiorno. Allora, io semplicemente, allora, dopo un po' di anni di palestra, alla spalla sinistra avverto leggero dolore, un po' su, come dire, mai fatta una diagnosi precisa, si parla di cuffie rotatorie, una leggera lesione, che infatti sparisce nel momento in cui non sollecito più la spalla, o se faccio gli esercizi a pendolo, determinati esercizi di decompressione. Cioè lei, Paolo, io la sto sentendo un po' male. Paolo, praticamente lei ha male alla spalla quando la muove, fa degli esercizi? Esatto. Ecco, esatto, ma chi è che le ha detto che è la cuffia dei rotatori? Se l'hai detto da solo o gliel'ha detto un medico? No, vabbè, il medico mi ha sospettato ma non ho mai approfondito. La mia domanda era questa: se eventualmente il tutto permane e viene circoscritto al semplice sforzo, può degenerare una lesione del genere? Okay. Per esempio, ci sono calcificazioni, non so che tipo di problematica posso andare incontro se rimane questo il tipo di... Grazie Paolo. Dottor Maradei, rapidamente. Allora, se il dolore compare soltanto dopo un esercizio, dopo uno sforzo fatto in palestra, bisogna rivalutare l'esercizio, vedere se fatto veramente bene o se l'esercizio non è eseguito bene. perché questo può creare delle infiammazioni sia alla cuffia dei rotatori sia anche al capolungo del bicipite, quindi il dolore potrebbe essere relativo a questo. Certo, insistere col dolore con un esercizio è sbagliato, perché in realtà si possono creare dei danni. Anche perché si tende, se la spalla è dolorante, mettiamo in moto senza accorgercene delle, cerchiamo di riequilibrare per non avere dolore, quindi da un movimento sbagliato si aggiunge un altro e così si peggiora la situazione. Meglio farsi seguire. Adesso invece noi andiamo insieme a seguire il traffico. Tra poco ci raggiungerà un altro esperto a cui spesso si ricorre in alternativa all'ortopedico, e il fisiatra. Cercheremo di capire che cosa fa in realtà. Spalla, continuiamo a parlarne grazie soprattutto all'aiuto delle vostre telefonate che ci aiutano a inquadrare il problema, 824 0024, ma adesso leggiamo perché è arrivato il momento del nostro consiglio di lettura. Grazie all'iniziativa di Internet Bookshop potete ricevere a casa il libro dal titolo Corsa. Molto semplice da memorizzare e da scrivere. Mandate rapidamente un'email. Dovete essere i primi a essere benessere@radio24.it con il titolo del libro, i recapiti e il numero di telefono. In collaborazione con IBS.it. E vi ricordo che di corsa parleremo domani, quindi se avete iniziato a correre, se volete farlo, se state pensando di iscrivervi ad una maratona, avete qualche dubbio anche sulla tecnica, sull'allenamento, iniziate a scriverci e non perdetevi la puntata domani, perché avremo un pool di esperti a vostra disposizione. E intanto ci ha raggiunto anche un'altra esperta per parlare di spalla, è la professoressa Diana Barbara Piazzini, fisiatra dell'Unità di Medicina Fisica e Riabilitazione del Policlinico Gemelli. Buongiorno professoressa. Buongiorno. Senta professoressa, noi in linea abbiamo il dottor Maradei, ortopedico, ma ci sono persone che prima di andare dall'ortopedico, naturalmente si passa prima dal medico di famiglia, si dirigono verso il fisiatra, che almeno noi pensiamo a un approccio più soft al problema, dato che non frequenta d'abitudine le sale operatorie. Ma che cosa fa esattamente il fisiatra? Come può aiutarci? Dunque, bisogna vedere innanzitutto come arrivano i pazienti, quando ci giungono. A volte ci giungono con un fatto, si trovano con una sintomatologia acuta, sì, e magari che è sopraggiunta alcuni giorni prima, e il paziente ha molto dolore, per cui noi consigliamo soprattutto in queste fasi, il dolore soprattutto notturno, sentiamo in queste fasi il ghiaccio, la crioterapia, sì, cioè la terapia col ghiaccio. La borsa del ghiaccio. La borsa del ghiaccio e... in associazione alcuni movimenti, cioè delle posture noi chiamiamo, che devono essere fatte proprio per evitare la complicazione più frequente di una spalla dolorosa, è il blocco articolare, cioè la rigidità articolare che sopraggiunge poi in seguito se uno tiene ferma la spalla. Per Senta, cui, questi movimenti, acute, professoressa, non è che ce ne dice uno. Diceva? Non è che ci dice un movimento, magari dunque, qualcuno... Dunque, no, nelle fasi più acute sono solo delle alternanze di posizioni. Sì. Noi diciamo, consigliamo al paziente di mettersi in abduzione, cioè allontanando la spalla dal tronco, sì, così, oppure anche in rotazione esterna e interna, magari con l'aiuto di alcuni cuscini, con l'appoggio sul tavolo, perché nelle fasi dolorose è veramente difficile muovere una spalla. Certo. Questo è nella fase acuta. Ma molto spesso ci arrivano magari perché sentono questi dolori sordi, perché hanno una forma cronica, oppure anche quel dolore fastidioso che è cominciato e subentrato, magari non si rendono neanche conto, quando a volte anche con un movimento sbagliato o di notte è cominciato, insomma ci sono varie le cause. E allora in questo caso qui la terapia consigliata in ogni caso è la terapia d'elezione e l'esercizio terapeutico, sì, cioè quindi il movimento che chiaramente deve coinvolgere, viene direttamente e soprattutto diretto all'articolazione della spalla, quindi si fanno gli esercizi propri, tipici dell'escursione articolare che fa l'articolazione della spalla, però nello stesso tempo viene interessato anche tutta l'unità cinetica che va dalla colonna cervicale alla mano, in quanto un'articolazione non può prescindere dalle altre. Certo. E noi dobbiamo ragionare sempre in termini globali. In effetti spesso, oltre a questi esercizi, poi molto spesso anche questi problemi di spalla vengono inseriti anche in rieducazioni posturali globali, cioè in certe metodiche di ginnastica posturale. Quindi globale. Cercate, professoressa, di vedere il problema nel suo complesso. Professoressa, parlando con lei fuori onda, anche lei ha avuto problemi di spalla e li ha risolti, sì, è vero? Sì. Li ho risolti. Dunque, a me pensi che è venuto proprio in con l'esercizio, con, cioè in palestra, perché spesso può succedere anche per un sovraccarico funzionale, un sindrome da conflitto o una tendinite del capolungo del bicipite, quel muscolo che flette l'avambraccio sul braccio, se va incontro a un sovraccarico da movimento può sì. determinare poi una tendinite e poi andare anche a un fenomeno di degenerazione. E lei che cosa ha fatto? E io, come tutti poi i medici, ne sappiamo, sapete che ci trascuriamo abbastanza, e alla fine, facendo una di queste metodiche dolci, globali, che dovevo appunto apprendere proprio perché era una nuova metodica, che è quelle metodiche dolci dove si apprende la percezione di sé attraverso il movimento, sono sì. metodiche dove vengono effettuati esercizi di rilassamento, di stretching globali, sì. Si è rotto questo meccanismo doloroso che si autoalimentava da circa 6-7 mesi, e dopo questa metodica, che è durata per alcuni moduli, quindi non subito, io ho finalmente avuto, insomma, la risoluzione della sintomatologia dolorosa. Certo, non la risoluzione, no, non la però il dolore per un del tendine, certo. quindi è sempre una spalla che va soggetta magari. Però professoressa, possiamo dire il dolore dire... è passato, quel Anzi. Dolore sordo continuo che avevo, che mi risvegliava anche di notte, è passato con facendo questa metodica. Quindi, come dite, a Roma ha svoltato. Professoressa, ha svoltato, sì. la ringrazio per essere stata con noi, buona giornata. Grazie, arrivederla. Abbiamo pochi minuti per approfittare ancora del dottor Leonardo Maradei, e andrei a Torino. Ci chiama Fider? Sì. Fider, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Dunque, cercherò di essere sintetico. Grazie. Ho 55 anni, quindi come lavoro un po' sedentario, nel senso che guido. Sì. Dunque, da qualche anno mi hanno riscontrato una calcificazione alla spalla sinistra. Sì. Per cui la mia dottoressa, il medico di base, insomma, non so se non sapeva o sapeva, mi ha detto che non c'è niente da fare, però ovviamente io non mi sono arreso, mi sono un pochino sì. informato. Allora, signor Fider, io ho Fider, il dottor Maradei in 30 secondi le dice qual è, almeno non so, la sua opinione, pur non vedendola, non avendo visto gli esami. Dottor Maradei, prima di chiudere, un messaggio per la calcificazione alla spalla. Allora, questo è un altro grosso capitolo delle patologie della spalla, la cosiddetta tendinopatia calcifica, abbastanza frequente, assolutamente benigna, che si risolve il più delle volte con dei trattamenti con onde d'urto. Sì. Le onde d'urto sono la terapia d'elezione in questo tipo di patologia, che non sappiamo perché si crei. Certo. Non c'entra il sedentario o non sedentario. Alcune persone sviluppano delle calcificazioni all'interno del tendine e in genere il problema viene risolto tranquillamente, senza bisogno della chirurgia, ma soltanto con le onde d'urto. Bene, dottor Maradei, con lei non siamo entrati in sala operatoria, ma abbiamo dato ai nostri ascoltatori tante indicazioni. Ad esempio, a Fider si può fare qualcosa anche per le calcificazioni. Dottor Maradei, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie Nicoletta, arrivederci. Appuntamento a domani, andiamo di corsa domani, vi aspetto. Buona giornata intanto, un saluto da Nicoletta Carbone.